Attento, gufo dritto. Passo. Attento. Sente. Camari. Oh, ma tutto. Ma dove sei? Dove ti trovi? Passo. Passo. Vittoria. Ripetere, non ho sentito. Sento, passo. Ma dove sei? Dove sei? Da dove parli? Ma sei un gabbo, me! Uffo! E beh, accetti, me la bei. E beh, me la bei. E io... Che facendo c'è? No, sto guardando Geo e Geo, alla TV. Cioè, Geo e Geo, no, Geo e Geo, Geo e Geo. Ehi, Geo e Geo, la sta facendo vedere i beni confiscati alla mafia. Gli hanno dato in donazione il comune, hanno fatto circoli ricreativi a badaglie, anziani, giovani, insomma un po' di Godzilla, perché l'hanno abbandonati. Almeno così ci va un bel di gente, si diverto. In estate però. E dove è questo? Dico, no, in Sicilia. Ville, cosa sono? Ci sono terreni con capannoni, un villone enorme, quattro cose gli ha donato il comune, la giustizia l'ha sequestrati. Ci sono centri ricreativi, e capito, un sacco di cose stanno facendo. Tutti i volontariato fanno quelli che vanno lì a fare. Nessuno è pagato, però qualche cosa io dico si la bucarà. Di sicuro, certo. Una cosa la recuperano. Sì, mi poco fa ho venduto. Infatti, sono là. Hanno chiesto dei sussidi a certe banche di quel ramo lì, da. E già gliel'hanno date, hanno ristrutturato, accolto, fatto, un bel di cose. Pulling the plug with the goods on the one. They try to take with the can but a bun on them. They're trying to make move from a son on them. Non ci interessa il cinese, no. Diglielo. They know me. Aspetta, mi sto prendendo la gli occhiali. Di cavalla. Ma che cazzo di musica? Che cosa? Il microfono. È perfetto. Anche prima funzionava, solo che l'avevo modificato, che si era rotto il violino. Mi avevo concolato con l'asta. E niente. Come si dice? Si è a posto. Ho messo un tantino suo. Ma già è vero. Dobbiamo comprarmi un conto corrente, ma non a Giugana, è domani. E per che cosa? Cosa devi fare? No, devo fare un versamento. Io ho già pagato la cucina. Pure anni, ma me ne sbigliamo tutto. Ti ho detto, si è pagata la cucina. Lo voglio già pagare, io sono a posto. Pagazza, bravi ragazzi. E allora, Gio Marino, siccome c'è gente che non le paga, capito? Fammi da poi non li pagano. Io l'ho sempre pagata, sempre. Ma non perché... Meglio sempre essere tranquilli, se... Lo credo bene. Comunque, buonasera. Lo credo bene. E fanno bene se mettono la multa a chi lo paga. E sarà te pure sono quelle multe, non sono 2 euro, no? Oh, via. Grazie alla benedizione, non ne paga mai. Gio Mari, comunque buonasera. Il discorso è che per 12 euro non ti puoi riscare una multa di 2000 euro. Ebbè, non rispondi, bello bene. Spacca giù, grazie. Parà, Giuseppe. Ah, ma... vuol dire che andate a cucciacca piccolino, le giunta di cucina. Me l'ha notata, mi sono passato ieri notte, Uia, per carità, manca i cani, stanotte senza dormire, tutta la notte, col freddo, Cosa hai fatto ieri notte? Stanotte senza dormire, Gio Marì, con il freddo, le ossa, ma freddo, allucinante. Sono svegliato che erano le 2:30, ma più preso, sono fatto come un pistone. Un po' di mal di gola. Avrà pigliato anche il colpo d'aria, già che avrà sono molto frequente i colpi d'aria e bisogna stare anche attenti, capito? È un macello, passi entra subito, è scindi che senta. Lo so Gio Mari, è vero. Ai scizzi senta, entra subito. Vabbè. Ma io sono soggetto ormai, prima no, ma adesso con l'età. Perché su Google ve lo dico, l'età, dopo 40 anni arrivi in acciacchi, E già nasci di uno acciacco, L'età non influisce, quando sei giovane, capito? Quando è anziano magari è pericoloso, ma quando è giovane è più tranquillo, là. E per cui bisogna stare molto attenti ai colpi d'aria, specialmente in questi periodi, per carità. Non me ne paghi mai tu, a te le immagini Luca. E cosa ti paga? Anche la mia di tassa. Ehi, papà, dove sei io? 13,50 per essere precisi. Ecco, la tassa? Sì. No, se l'avrei avuto l'avrei pagata, ma me ne sono dimenticato stamattina. Ce l'ho uno, ma è a 4 scompartimenti. Non aggiungare a descrivere 4 compartimenti. Lo so, un giorno ti scatto e compilare quel modulo, 3 volte ho sbagliato io, ma quasi alla fine, ma vaffanna, poi stava proprio piano, poi ci ribunivo 20 minuti, poi ci butto 3 ore. E infatti io volevo prendermi quella a 2 compartimenti e invece ce l'ho, ma è a 4, vivo mezz'ora a scrivere, no, a dire, la capisci. Domani me lo procuro alle poste e lo faccio, però a 2, a 4 mi rompe le palle a stare lì a scrivere. Io ce l'ho a 3. Ah, è a 3 quello che abbiamo lui, no? È a 3. Uno se lo prendono loro e 2 rimangono a 3. No. Adesso ti danno tutto il coso, Gio Mari, tutto il bollettino. Non gli rimane niente a loro, praticamente trasmettono tramite i codici, capito? E allora adesso te lo restituisce a te, la stanno facendo così per eliminare cartaccia, capito? Ti metti al timbre e te lo do rientri. Poi io ho compilato, poco fa me l'hanno compilato, adesso o domani, dopo domani lo pago. E io domani, no? Alle poste dopo ho guardato, non ce n'erano di quelli lì e poi mi sono dimenticato di chiederglielo al bancone. Mi sei chiuso da capo. Ah, c'è due scompartimenti già fatti in fretta, ma quando ce l'ho è a quattro, abbiamo la volta a compilarlo giusto quattro. Oh, Io ne ho a due e a tre. Era proprio 5 o 6. E io che li avevo, li ho operati, l'ultimo che ci avevo l'ho data a mia figlia. E a giudizio, quando basta le bocce, mi ribigli un poco. A chi ci vieni sempre, ma così la gente ti zitti. E invece, quello che c'ho è a 4, ma non è compilo di quello, mi mostro più dentro. Oh. A 4, boh. Oh, faccio che prendi quelle da 3, va bene così, e quella a 4 ormai no. Boh. Oh, non succede niente perché basta esserci il numero di conto corrente e si tranquillo, però è normale, è giusto che sia quello a 3, capito? E poi intanto se lo fai e te lo restituisci, ti mette il timbre e te lo torna, capito? E poi cosa mi ne borsa a 4 o a 3 o a 2 che va bene. Fatto perché io lo ritagliavo un pezzo e lo mettevo in macchina, capito? Ma va in macchina, non la che non li borsa, dunque andava a 2. Riprendilo un attimino. Luca! Va Luca, c'è parato. Deve essere per ne pulire su posta la Marina, si è influenzato. No, oggi vuoi stare che vieni tu a ponermi la supposta. Vieni tu, Mario, non è... No, allora io mi ha avuto, mi fa male il fianco sinistro. Pare che va giù un cucchietto vecchio e un rognone. Ogni Mario, ripri. E cos'è, non c'entri, Luca. Aspetta un attimo. Ehi, ciao Mari. Oh. A più o meno non riesci a cattare un centro, Luca. Non riesci a ciappare cosa? Un centro, riesci a pulire nella supposta. Ah, che baglia buco. Oh, Bruno, mi vuoi bagliare buco qui. Non potevo buccare l'altro, non potevo buccare l'altro. E non fa come ti ha fatto video, è andato a dare un ristorito, me ne ho ingoiato una scatola, me ne ho ingoiato e mi sento sempre male. Ma Luca non sbaglia, Luca non sbaglia, però lui. E allora, Graziano ci sbaglia sempre, però. Chi giù la mia ciamba di ma, papatini e si tira in gutti. Graziano, ma puoi sbagliare a chiamarlo, non sente più nulla, capito? Se non si sa un lavori, a chi non intendi niente, tu. Oh, è a posto molto, muore, non intendi più nulla. Troppo dilattamento, e allora non pare nemmeno che è entrata. Oh, se c'è tutta carne, ma è pulsato così. No, solo davvero ieri, nella stessa posizione. Due di segnale, sì, ti ha sentito sempre forte e ha messo due di segnale a radio tutta a scariche. Ah, se te metti a me in bauletta, riprendi lui. Aspetta che riprendo subito. Oh, Daniele, Daniele, mi senti? Buon salve Vittorio. E lei? Già ti dicevo, ora che sto cervelli. Nulla di tutto. Ma frate non puoi capire, io non sono da capire. E capito, ma così io. È proprio una fazione di merda. Ho preso. Ascolta frate, ti devo lasciare un attimo. Ok. Buon sabato. Che c'è un po'. Vabbè, molto che abbiamo a giocare qua. Sto cadendo a pigliarla in giù. Dai, ecco. Oggi non ci sarà anche ora chi sta segna. Oltre abbiamo. Aiuto, spegniamo i baracchini. Oltre abbiamo a giocare qua. L'altra piazza d'Italia a giocare. Se volete il pallone ve lo diamo noi, eh. Becla. Ciao D. Che hanno preso il PMR per giocare. A Natale tutti il PMR hanno regalato. Cattoli, ancora non hanno capito niente. Cosa vuoi farci? Queste frequenze sono così. Perché a Natale hanno regalato tutti i PMR come facevano a noi, ci regalavano le walkie talkie. Ma non sanno che questi non sono walkie talkie, però no. Cazzo no. Lo so. Ma non fare così, e poi non si sente uno con l'altro. Ah, la gara, lì. Dove sono? La tua zona? No, arrivano anche qua, capito? Dove stai? E ce li ha pagati 50 euro, sono professionisti. Beato te li ha pagati 50 euro. Gli altri hanno 50 anni di galera fra un po'. Lasciali qua. Già pagano, ti ripaga i. No, 50 euro no, 2000 euro di multa che riboni, a chi non vanno in licenza. Maiko. Tino. Buonasera, ciao. Ciao caro, tutto a posto? Tutto a posto, niente in ordine come sempre. Sì, c'è anche Claudio, c'è Maria e Graziano. Avanti Graziano, ci sei? Graziano si stava mettendo la sul posto. Ehi Luca, oh, assassa lì, già c'è gente che basta guardare su subito ogni tanto. Io l'avevo trovata così una e poi l'avevo data a mio genero, capito? Non conviene comprarla, perché se non funziona la provi, se non funziona gli ritorni, come ho fatto io. Però se la quando la prendi così e non funziona, c'ha qualche difetto, ti attacchi a Leonias. Ma c'è scritto che è funzionante. E poi non lo so, se non funziona, tanto il tipo di Sassari, quindi avrà qui da capo. Tu glielo dici, non è che vi sei piaciuto, che sicuramente se vi sei piaciuto è una cosa che non funziona. Invece tu mi devi garantire che funziona. Io ho dato un televisore stasera, ho detto provalo, io l'ho usato e è perfetto, funziona benissimo. Gli ho mandato le foto, anche il video mi sa, se non sbaglio, no, le foto le ho mandato acceso, è perfetto, provalo, fammi sapere. Niente, cla. Alla fine poi non è che da un mese mi riarga che sei fasciato, io non c'entro niente, si arrangia. Scusate, non ci sto un attimo molto qui, sto con dei World Talkie FX390, dice che sono da polizia o no? Non li puoi usare, che è diverso, devi avere una licenza per poter usare quel tipo di frequenza, cioè quel tipo di apparato. Se non c'è la licenza ti trovano, sono 2000 euro di multa e ti portano in tribunale, capito? Ma io fuori piratti. Allora te l'ho già spiegato l'altro giorno se sei sempre tu. Queste non sono frequenze walkie talkie, ok? Queste sono frequenze semi-amatoriali, quindi stai parlando in UHF, bisogna avere la licenza. Se non hai la licenza non lo puoi usare. Capito mi hai? Faccio un gaffo. Oh Luca, intanto ricordo io è a Dubai. E cani? Solferino. Ehi, non hai visto la fotografia che ti ho mandato, Lu? A Dubai, Goodbye. Allora, lo so, Gino. Ha vinto a Cosio, con Gerry Scotti, a Dubai. Mi sei venuto, ma come te, lascia figli. Va più account web di Facebook che Facebook. A Dubai ha vinto su Gerry Scotti. Gerry Biscotti, già lo so. Spiegaglielo tu bene, per una volta è tutto. Cioè così non entrano più qua, non possono entrare, cambiarsi canale, si parlano tra di loro, se ne frega. Ma se glielo ho spiegato non mi capisce, io non che posso stare a mattarmi lo zebetto, no? Io ho finito di mattarmi lo zebetto, faccia quello che vuole. Al limite spostatevi di canale, questo è già occupato, questo è il canale 7, mettiti nel canale 1, capito? Sei canalizzato, mettiti nel canale 1. Ok, va bene, ok, non c'è problema. Sto prendendo i burucca. E poi da un microfono, lo dici, bene, facciamo un giudizio. Ehi, vabbè ragazzi, io ne ho 5-6 qua nella zona alta e qualcuno anche nell'altra zona. Che a Natale hanno ricevuto questi regali qua, capito? Ci sono bambini che campagna, da una campagna all'altra si chiamano, sono sempre in mezzo ai ribelli, sempre. E cosa vuoi fare? Cosa fai? Ti metti a... bambini sono i genitori da arrestare che comprano le cose che non possono comprare, capito? Fra poco regare a Natale, regare ai buoni bittori, così si ammazzano i traietti. Vabbè, facciamo quello che vogliono, che a me non mi interessa. So che danno solo fastidio, poi parlano anche male, capito? No, vabbè, già lì sei intorto. Già sei intorto che non lo puoi trattare, in più ti metti a parlare male ancora peggio. Luca, ciao Claudio. Dimmi. Mica ho guardato adesso, invece ce l'ho già compilato. Ma l'avevo compilato, ce l'ho, quello là è 2018. Questo non è, è compilato, però l'avevo già fatto. E allora, mi ce l'ho già pronto. Ah, non ne paga, Graziano, non ne paga, futtidini. E beh, muccolo, tutto a posto? No, io pago sempre, paga, paga, non si sa mai, può passare la mosca zezze. Ehi, Cla, sì, niente, diciamo, là. Ci facciamo le ferie e poi vediamo se rientrare o meno, vediamo cosa ne esce fuori dal cestello. Ah, futtidini, tu metti tutto nel carrello. Padrino è partito a Londra, quindi adesso si è in ferie. Lo so, sto accudendo i cani a casa sua. Domani devo scendere, devo fare un lavoro nei punti, poi mi avvicino anche a casa sua per fare dargli a mangiare, da bere e controllare un pochino, vedere un po', no? Che porta delle più cibi, ecco. Cazzo, c'è un prendo, fa vedere, Così è. Perché non passo io. Ehi, non passi, grazie. Sempre fa vedere, dice, fa vedere di Tino, va a ti passa sopra. Sì, già me l'ha detto, è venuto a casa prima di partire. Poi siamo visti a Natale, abbiamo preso il caffè, già me l'ha detto. E manco male, dice tu, se no ti visto. Perché prima c'era Gianni, ti ricordi? Gianni quel signore anziano. Adesso si sta più scendendo. Già lo so. Beh, non sta più scendendo perché... Vabbè, sono cose che... Uno si stufa poi, dai. Nel senso che... Ormai la sua cosa l'ha fatta. I dialoghi dove l'ha fatta? Ha voglia. vabbè. Già va bene. No, io gliel'ho chiesto, se aveva necessità, se aveva bisogno di qualcosa, mi ha detto appunto che si era già organizzato con te, capito? Già va bene. Va bene, dai, tenete duro, ci sentiamo dopo se coincide che faccio due cosette. Ok, ciao Tino, Graziano, Luca e chi fosse in ascolto, non ho sentito altro nessuno io. A frappè. Ehi, a class, dai. Anche io in Curricsa, tanto qua c'è il bailame familiare, quindi sono da una parte all'altra e quindi mi prendo anche il giro, mi prende. Ciao class, Tino, guarda il telefono, ti ho mandato un messaggio. Aspetta, la faccio parlare a mio figlio che ce l'ho in cucina e poi vediamo. Il grande è uguale a te, sì. Uguale a te, spiccicato, quando eri ragazzo. Stessa pettinatura anche già. Aspetta che non ti ho sentito, grazie. C'è un casino qua dentro, l'hai detto? Ho detto il grande, che non mi ricordo il nome. È spiccicato a te quando eri più giovane. Anche la stessa pettinatura tua già. Visto vai. Mi ricorda quando siamo andati a Stintino in moto. Uguale, stessa pettinatura. O quando sei rimasto a piedi a Balai con la 127. Aspetta che ascolto un messaggio vocale. Eia. Ok. Già sono qua, grazie, ci sentiamo dopo, devo fare due cosette. Ehi, hey, Luca, ci sei? Aspetta due secondi arrivo, Giovanni. Lu, ho sentito. Sì, con la differenza però che io gli sono andato addosso e ci ho parlato tu per tu. Sono scelte di vita, no? Fusidini. Ce n'è di meglio, senza stare lì a specificare, Lu. Capito, Luca? Ciao Maria, caro sì. Aspetta, sto facendo cose, arrivato subito. Ehi, Lu. Luca! Via, chi lo vede qui? Graziano! Ehi! Che fai quel numero fai? Ciao! Avevi ragione, Gianmarie, che prima o poi si sporcava anche questa frequenza. Ma serve. Ma tutte le sere ci sono. Parolaccia a macchia dritta, se sa, cosa devi fare. Un attimino il telefono. Sì, vai, vai. Quel signore che nessuno ti dice che non devi parlare, ma almeno parla bene, perché c'è gente che ascolta, parla bene. E questo canale, il canale 7, se tu ce l'hai canalizzato, il canale 7 è già occupato, vai in un altro canale, mettiti in un altro canale, penso che non ti costi niente. Con chi ce l'hai? Passa il 27. Non ho 27 qua io, no, Giulio, te l'ho detto, non sono solo a casa. Ah, ho capito. Sì, vabbè. Sono con Marco io. Ma non è oro, sa, anche Marco. Non sono a casa. Qua c'ho solo le vue, e basta, capito? No, con un signore che parlano male, capito? Gli ho detto che non si parla male qua. E che questo non è un walkie-talkie, è un PMR si chiama. Siccome il canale 7 è già occupato, l'ho detto, se te l'hai comprato canalizzato e parli con i tuoi amici, cambia canale, basta, non gli ho detto altro. Ho capito, no, qui non arriva. Si vede che è proprio debole, qui non arriva. No, appunto sto dicendo, ma come ce l'ha? Io appunto ero in ascolto sul 10. Poi ho chiamato, anzi prima ho dato un segnale su 10 e poi proprio in quel momento mi è arrivata una telefonata e c'era Marco in attesa, poi ho ripreso e dunque siamo adesso insieme con Marco. Ehi, ma io c'ho il portatilino, però è solo il ricevitore, capito? È anche spento. No, sono qua perché non sono stato bene, quindi siamo stati qua. C'ho un po' di bronchite, un po' di cose, se qualche colpo d'aria ho preso. Sì, la bronchite culo, non te la trascurare, ma che dai. Che quella è talenta e poi se uno si trascura aumenta. No, quella bisogna smorzarla subito. Lo so, infatti sto facendo così, prendo l'antibiotico. Ho detto di non sudare, non prendere colpi d'aria. Allora, gli ho detto, c'è la biglia e luci, ci rimane qua. Vai al 10, non c'è problema, io già sono in ascolto. Basta, non c'è problema. Sì, appunto, vabbè che sta pronzando Marco, però già sta ascoltando. Ma pranzando sta, no, non cenando. Però sai che lui a questo la pranza, non cena. Lui a questo la pranza. Per cui. Marco, se stai ascoltando il PMR, passa il PMR. C'era Graziano poco fa, Luca, è entrato Tino, Gian Maria. Però ci sono questi, ogni tanto si mettono in mezzo. E sembra che disturbano in quella zona. Arrivano anche qua, figurati. Sicuramente sono in mezzo tra latte dolce e campagna. Il Natale c'era in questi giorni e qualcuno avrà ricevuto in regalo questa radiolina e evidentemente hanno sbagliato. Anziché prendersi il Brondi, gli hanno dato il PMR e male ai bambini. E cosa ci vuoi fare? Però la colpa non è dei bambini, Molti tocchi che ti posso dire anche a me. FX 390, poi se vuoi, vabbè, forse cacciando, lottando. FX 390, che marca è questo FX 390? Perché non mi dice niente a me questo FX 390, a prescindere, no? Ma T'ho detto già che non si chiama walkie talkie, tu c'hai in mano un PMR, si chiama PMR. Allora, questa marca è FX390 a Brundi. Ah, Brundi, ed è canalizzato? Cosa vuol dire canalizzato? Boh, so poco come arrivi in vostra campagna. Dove sei in mezzo, tra me e te, lui? No, sono forti in questo, no, pure io le Brundi, non è per il Brundi, sono i miei, no? Ma che me sono potenti, ecco. Ne ho due, ma sono potenti veramente. No, va benissimo, direttamente la quota di 10 km, noi forse di quanto sono di chilometri. Io arrivo sino alla Landriga e basta. Ho capito, comunque, tutto quello che vuoi, perfetto, a me non me ne frega niente. Però ti ho detto, parlate bene, e questo canale 7 è occupato. C'è già gente che parla, quindi se dovete parlare tra di voi, mettetevi in un altro canale, non vi stiamo chiedendo molto, eh. Sì, va bene, però no, senza la rabbia vostra. Senza la rabbia nostra? No, io mi adiro quando sento uno che parla male, perché qua non si parla male. Ho già spiegato che non c'è in mano un giocattolo, c'è in mano una radio dove ti ascoltano tutti ed è brutto far ascoltare le tue parolacce agli altri, no? Mi sembra giusto. Mi sembra ovvio, beh, per carità. Ecco, allora insegnali, se sono gente che conosci, che non si parla male. Capito? Tutto qua. Questo è quello che chiediamo. Se non è illecito, ci fai una grandissima cortesia. Certamente. Perché non perché dovrei rifiutare? Perfetto, bravissimo. Lu, aspetta che ti telefono un minuto, ti devo chiedere una cosa. No, sto telefonando al mio amico un attimino, riprendo dopo. Sì, ok, va bene, ok, perfetto. Poi mi vabbè, non si mette con chiamo, quindi le do delle istanze. Da lei non si dà nessuno in radio, ci vuole solo il rispetto e basta. Io mi chiamo Claudio. Ce l'ho anche io, mi chiamo Vittorio Del Pago. Comunque piace a me, lo stesso piace con gli amici che c'hanno gli altri. Poi se avevi da fastidio, assolutamente no, io non sono il padrone di niente, ognuno è libero di fare quello che vuole, l'importante è sapersi comportare. Aspetta un attimo che devo fare una telefonata. Ok, a dopo. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. Ehi, va bene, così già va bene, dai, già ti sento, un po' corremato sì, ma già ti sento. Ehi, più di tanto qua, finita la pacchia, più di tanto non posso alzare. Ehi, ok, dai un girettino, dai un girettino di potenza, dai, così mi arrivi più pulito. Questo a posto. Grazie, Luca. Ehi, ma Luca non c'è. Aspetta, c'è Mario un attimo, sono al telefono. Eia. Ehi, you. Cosa se ti vedi, ma vieni. Ah, mi bisogna bere anche i riscotti. E fammi da contiga, va. E cosa mi fa? Io l'ho spento poco fa la TV, stavo guardando Geo e Geo, niente. E cosa vuoi fare? Io, perché sta... ma guarda, fate da fare Geo, guarda, guarda, nulla, boh! E a me mi devo un fianco, guarda, boh! Sì. Parlano fino a poco prima. Mi chiamate. Mi fa pure tirare la sabbia da miglio. Cosa vuoi fare? Non può fare niente, basta. Mi ha tirato la sabbia e basta. Ehi, domani sono di controllo. Domani si va. Aspetta. No! Bisogna andare a cercare saluti! Si la ciappa! Ma nel bar manco saluti la ciappa! Perché devo andare dal cardiologo, capito? Dal cardiologo dove c'è lì? Mi devi visitare un cardiologo! Ah! Ehi, via! Sì, capito, bisogna andare. E io da ragione. Oia, per carità. Non si da comprare più niente. E non c'è un duro ridù, roba da ratti, tuo. È proprio così, è roba da ratti. Eia, non si è sentito, dove? No, ancora no, ma avrà entrato fra poco, va. Se non è andato a accompagnare i nipoti a giocare a pallone, già rientra subito. E ci sarà Bacchisio, vediamo un po', Bacchisio evidentemente ancora non sono disponibile, ma già entra, dai, prima o poi, prima di chiudere, prima delle 8 già entrano. E Bacchisio sarà con te nel bisello. Oh, sarà con te nel bisello, chi si è? Con te nel bisello, gatti, chicchini, vine, 30 un bisello. Basta, rufà. Ha manco fatto allenamento. E allora, iaia, per carità, vediamo se mi risponde. Tore, a ci sei? Tore, se fessi la bufera, grazie. Claudio che non è disponibile, ma avete ricevuto? Ma no, perché devo fare una cosa importante. Basta. Tore! Arrivato, sì. E ora c'è a passeggio con Lugani. Grazie, prima alle 7 non vorrei. Invece prima, vai. Salve, sei andato a accompagnare i nipoti, ripeto. O a prendere la moglie. Eia, Luca, finite questa telefonata. A telefono, dai. E a telefono, Luca, grazie. Però stasera c'è un po' di guerre, ogni tanto. Con Vittorio, mi sarà anche preso l'atto con Claudio, ma Claudio non mi riceve. Lo senti il guerre, me ne hai aggiungo, ma... Cosa? Guerre, me ne hai. No, no, ce l'ha uno lo squeci. Io sento QRM, ogni tanto, un po' e poi sparisce. Oh, grazie. Sono quelli là stanno parlando ogni tanto, capito? Boh, sento un rumore e boh. Sono loro che stanno. Ti farò basso e arriverò con QRM a te, capito? Però quando sai QRM, sono loro che escono con QRM. Boh. L'accetto due minuti. E chiama quando rientra, dai. Eia. Grazie, ti stanno chiamando. Ehi, Vittorio, mi sono preso il nostro collega, con Claudio, ma Claudio è ancora disponibile. Perché non mi riceve in questo momento. Chiedi di mettersi in linea. Ti servi? Su Guggiamele, vabbè. Grazie, mi rispondi. Onda la linea, la linea 6, Claudio rispondi. Mi rispondo. Abbassi, passa il walkie talkie, oh, PMR, cosa cazzo, walkie talkie, non c'è nulla. Claudio, mi ricevi? Claudio, 8, non so se mi re. Tore, quando mi sente, Furio? Canale 7, qualcuno mi riceve, sono Tori, Claudio e Graziano. Ciao, Metto. Buonasera, Giomari. Chi è che chiama? Giomari, care. Non lo so, è da poc'anzi chiamando Graziano, è attore, ma non lo so chi è. Guardate che chiama attore. Se vuoi entrami. Vabbè, allora Giomari, cos'è, chi è? Boh, ma si presenta? Olivero. Conosciamo un Claudio, però bisogna vedere chi... chi stai chiamando tu. E ma chi si otto, sentito hai? No, stasera no ancora. Sono rientrato, se non ho un 5 minuti che sono rientrato. Ero giù a San Giovanni da mio nipote al campo. Me l'ho immaginato me, perché l'ha chiamato anche Graziano, poc'anzi. E io l'ho detto, ma senz'altro sta accompagnando a, a San Giovanni il nipote, ho fatto, già era acquisito. Graziano si è saltato, dice, la chiama lui quando rientra. Ma io pure me l'ho immaginata, senz'altro sarà accompagnando il nipote. Sì, ma ci ha mandato tutti, tutti in presa, me figliura, catta. Ma perché va tutto in pressa sa gira, oh. Ma ti conosco io. Se mi conosci a me. Certo, se a me mi conosci. Guarda, noi siamo in frequenza. Sì o no, da... Cosa siamo, Giomari, in frequenza? A 50 anni, 60 anni. Su 55 sono. Vabbè, io sono 55. Così che ci puoi immaginare. Se siamo educati, noi ospitiamo tutti, tutti quelli che entrano con noi sono sempre benvenuti. Ma se essere educati e si parla del più o meno, e così che a noi ci fa piacere, ma quando si entra con maleducazione e con delle parolacce non sa bene, non è giusto che si dica così. Capito? Per cui un attimino che hanno suonato la porta, Giomari. E noi siamo educati abbastanza bene, siamo, se l'hai capito quanto ci siamo in frequenza, quindi, purtroppo, la vecchia si va avanti, 40 anni, 50 anni ci ho passato un bel. Oh, vabbè che... lo so, noi siamo una vita in frequenza, pensa un poco, pensa un po'. Vabbè, andate così. E forse stavo parlando con Claudio l'altro giorno, quando è a partire se non sbaglio. E mi sembra, se non mi sono sbagliato. E beh, è l'importanza che senta sopramodulare, magari se il canale è occupato, magari quando trovi magari il canale libero, che non sta parlando nessuno, uno può entrare, chiedere il permesso e si può chiacchierare insieme a noi ci fa piacere. No, sempre con le parole come educazione, ecco, diciamo. E vabbè. Comunque, l'ha capito. Sì, l'ho capito, che hai detto che ce li ha da poco questi apparecchi. No, non da molto. Vabbè. Giomari, Asco, te lo sai che dalla prossima settimana dobbiamo pagare la tassa, sì, di questi apparecchi? L'ho compilato il modulo, tu. Non mi frega come mi hanno fregato l'anno scorso, Gaspia, che ha pagato due bollettini io, tu, perché me l'avevi fatto tu, se mi avessi detto l'anno scorso, mi basta solo il carro del baracchino, e invece ho dovuto fare due moduli, uno me l'avevi compilato tu, ma io avevo già pagato la tassa del baracchino, così che io l'anno scorso l'ho pagato due, capito? Adesso oggi, stasera me ne sono compilato l'altro e domani andrò a pagarlo alle poste, capito? No, io lo pago la prossima settimana, lo pago. Alla prossima, tanto c'ho un altro anche bollettino da pagare, quindi se pago tutto assieme. E va la prossima settimana. Vabbè, ma non mi mettere il nome. Prendi l'amico, adesso non mi ricordo il nome. Ecco, Vittorio, sì. Ah, benissimo, riprenditela. Giomari, un attimino che rientro subito. Ehi, vabbè, sono qua già. Dimmi, ma non mi senti a me? Sì, sono Vito. E a chi sento? Dimmi. Vito, ma non mi senti a me? Ma a che zona sta parlando, Gio Mario? Arriva ben forte qua. Boh, anche qua arriva a una scala. Quell'amico che stava parlando con te, quando è ieri o avanti ieri, quello lì è Vittorio. Ha parlato anche poco fa, sì, glielo ho detto appunto di non dire parolacce. Sì, ma arriva forte, campagna, arriva ben forte. Ma si vede che a me non mi sente, ma mi senti tu qua? Se sia a fondo scala, dite cosa c'è antenna, tutti io mi sento a fondo scala, siamo a 100 metri. Capito, risponde, non mi risponde lui, a Vittorio, ma cosa mi dica qua? Vediamo un po'. Vito! Sei 100 km minimo. Non è ancora molto pratico. Aspetta quando finisce di parlare, Vito, se no parli sopra. Parli assieme a Gio Maria, capito? Via, tranquillo. Così piano piano prendi pratica, dai. E rimani qua con noi a fare due chiacchiere la sera, non c'è problema. Ragazzi, però io vi saluto a chi ha agito a mangiare Lugani, che già mi muscicende anche. Ci sentiamo dopo, ciao Tore, riprendi. Ciao Vittorio, a dopo. Va bene, grazie. Mettiti in conversione. Ogni tanto c'è lì per lui, grazie a me lo chef di turno, la sede del sacco, preparando la zena, riprendi Tore. Tore? Sono entrato, chi c'è? E beh! Grazie! Ciao Pitù, adesso ti sento, e dove sei? Siamo a Pazzuglio in Gallaccia. E fai bene, consuma! Chi lo sa sovordinà? Tore ha ripito, sì. E Tore si è assentato un attimino, grazie. Non so promodulare però, Vittù. Aspetta che non stia parlando nessuno, allora puoi parlare. Ma se tu parli sopra quando sto parlando io, ci soprano e non ci capiamo per niente, capito Vittù? Ok, ricevuto. Ok, grazie Anno, avanti. Gli ha detto Luca, che fine ha fatto? Sotto la doccia. Luca c'ha le mani, le droni, e per cui non può mollare. Eia, riprendi tu, Vittorio. Grazie, mi sento? Sì, basso però, poco fare più forte. Mi senti adesso, grazie? Adesso sì che ti sento, dove sei? In che zona ti sei adesso? Cos'è che ha? Parla più forte, un stelo. In che zona sei adesso? Che zona? Ehi, a momenti ci forte, a momenti ti abbassi il volume della voce. Adesso sì, questo devi cercare un punto giusto, perché se ti sposti anche di 5-10 centimetri, le onde si spostano, capito? E non riceve bene. Devi cercare di vedere un punto dove ti ascoltano bene tutti. Una volta che trovi il punto dove vedi che ti rispondono tutti, allora lì andare, capito? Ok, va bene. Eia, rilasciamo a Gian Maria. Ma in macchina sei o a piedi? Mi sfugge il nome. Vittorio ha detto a Gian Maria se sei in macchina o a piedi, ma lo occupi. Sei già posso. Ma l'hai copiata Gian Maria? Hanno copiato, vero. Gian Maria, scoppiato. Io lo sento, ma molte volte non riesco a capire ciò che dice. Vittù, sentito anche. No, adesso ti sento tratteggiato, evidentemente sei più lontano. Prima ti copiavo perfettamente, adesso sei tratteggiato, Si vede che si è allontanato, forse sei in zona d'ombra. Perché le punte sono ombre, ma senti Giovanni. Cosa hai detto, grazie? Che secondo che punto è, non lo senti? E questa queste onde sono così, se ti sposti anche di un po' non ti intendi né più. A dire se in macchina o a piedi? Praticamente di un attidotti. Il frattoio dei salesiani, dove ci sono i salesiani, e beh? Ma lì quando stavo parlando mi sentivate bene? Se sei in un punto più libero, più aperto, dici più bene. Anche noi qua, se ci spostiamo, per dire, se vado nel terrazzo, mi senti più forte. Adesso mi senti, Grazia? Adesso ti sento bene. Dai, l'importante è che mi senti bene. Se un cazzo che a Gigi, va, da terra, cazzo, fatti una minifea. Non ho copiato che mi stavano chiamando, cosa hai detto? No, a Giulietta, che non si deve fare, che a Gigi, da terra. Se un cazzo di questo fa una minifea. Aspetta un attimo che devo fare una cosa. Vabbè, mi dopo. Gio Marie, mi senti? Ma sei in macchina? Ehi, stavo dando una sferetta. Sono costante che non travaglio. Sì, capito. Sempre prendi sempre di cosa. Oramai faccio lavorare agli altri. Pure io. Vabbè, pure io non sapevo che cosa avevo. Ando, sto andando a spesa, giuri, va tutto canto. Non stai lavorando. Vabbè, a 16 anni, cosa vuoi fare, cazzo ancora? Vabbè, se ti esce qualche lavoretto, se ti vedi di là, sono sempre buoni, no? Lavoretti così. Beh, sempre meglio che in casa, no, grazie. Allora, se trovi a bianchinare, non ci sei buono a bianchinare. Sì, no, appena. Allora, se ci travagli, ci te lo fai a biancare una cucina, una camera, e so sempre di nanno. Sì, ma che? Tu da una parte all'altra vuoi tutto. E allora? A primavera quei lavori, non sai quanti ne cercano gente a bianchinare, un bei. Cazzo, in casa arrivano a macchia all'anda, a tutti i bacchi. Cazzo, di grido, cazzo, vado da idea ai nochi là. E allora, la pennella da nochi, la pennella da chità. E tu che lavoro fai, via? Non uso con i mani. Io facevo l'autista, adesso non lo faccio più. Cosa fai? Ma fai caldalinga? Faccio un commissionato, me la passeggio dalla mattina alla sera. E faccio lo ceppi, privato. Io, dalla mattina a posto, dai noghi in casa. Poi dal Vittorio e dalla Lesiani e poi andare a casa verso l'otto un mese. E fai bene, che da me è andata alle Salesiani. Ma tu grazie, ma è andato in Chivia all'otto dei Salesiani? No, all'epoca quando ero un bicillotto gli abbandati a rulati d'ossi. Arrivo sempre un dito greco, già. Ma adesso? Adesso con di Zanotto, hai preso un dito vero, coso, la locomotiva. Dove c'è il treno in esposizione, lì c'avevo un amico che ha lavorato con me ed è morto. Di quelle lì, capito dove sono quelle case gialle, quelle arancioni. Non ti manda, questi sono da bacchino, non vi sei mai passati in chiesa, non da bacchino, grazie a te. Sì, a voi anche l'altro giorno, a giocarmi la schedina. E anche la schedina di biliardo, grazie. La schedina del lotto. Ah. Lì ne puoi giocare, no, lotto. E me l'ho giocato e non ha giù vinto nulla. Sì, se no mio padre andava a casa e non vi zia nuda, lo salva la zia, non fa zia brocchiuta, lo rubiava e non vi zia nuda. Ho detto, ma va, schedina di non vi zia nuda. Ho detto, mi sembra 10 euro, ma che niente, mi grazia. Bisogna essere fortunati, se non si nasce fortunati, non vinci mai. E ha vinto una volta, mi pare 20.000 lire, quando c'era la lira. E boh, so più che ci mi ha rimagliato che dici che ha vinto. Sì, io ti chiedo grazie, quando vanno le lire, che vuol dire fare tutto casa? Non ne manco l'euro, che mi sono nato ne manco io, sono del zero tono io. Io sono del 5-6, figurati. Sì, prima tanti anni fa, quando vanno le lire, vuol dire fare tutto tanto, ma tutto è ciambato, grazie. E allora, io ho fatto anche la guerra. Ormai non è giambato tutto, ormai non si può fare. Gian Maria, aspetta, si chiama Gian Maria. Gian Maria, ci sei. Ah, stagiari, senti. Caruto. Fammi senti, cazzo, mi sono solo io, grazie, Graviano. Vuol dire che è giusta gente da Gian Maria, se no già entra. Tore è andato a prendere la moglie, la sua 50. Vabbè, Iaruso, ma ogni giorno ci siete in conversazione, grazie, che ne so ogni giorno conversazione. Perlomeno quasi tutte le sere, tanto per ammazzare un po' di tempo, un paio di ore. Ma o se no siamo nella 27, non è 27, sì, baracchino. Io mi pare di no, ma io ero matte. Mi hanno già comprato di com'erre, a Giuditubo, mi sa mi ricordo. A farmi da quelli sconosciuti, tanto per attaccare un telefono. A chi si è attaccato a un telefono 24. Ma il telefono ti fa di male. Più o meno lo usa e meglio è. Quasi se ti passi un paio di ore chiacchierando, sparando qualche cazzata, lui senza dire parolacce, perché ci sono anche donne in ascolto, bambini, capito? E allora non va bene. Ti fai una chiacchieratina con noi e ammazzi il tempo, no? E noi facciamo così, capito? Se non siamo su questa linea, siamo nella 27, nel baracchino normale. Beh, appunto, ti fermo il ricordo, avevo detto 324, tanto cosa avevi fatto da un telefono, penso, cazzo, io quando mi attaccare un telefono non mi scappo. Così va male, va, vediamo se è rientrato, Gian Maria. No, non è rientrato, grazie, se lo riposo subito. Evidentemente è giusto qualche figliolo, c'è la mitella, va. Devi da sé, Fabrizio. No, grazie. Ma perché da sé? Che è passato a trovarti giorno? Io sono latte dolcino e adesso sono nel bronzo. Cos'è, grazie? Di che zona è che vengo a trovarti? Il Bronx. Non sai dov'è il Bronx? Gian Maria, io vuole dai R. Gian Maria, non ci sei. Capito, vieni, dove sono? No, non ci ho capito, grazie. Ripetiamo, c'è alta sicuranga e mal sempre. Il Bronx. Capito hai adesso? No, parla di nuovo, aspetta, vai! Nel Bronx! Siamo, perché aspetta, c'ho un altro dove si possono sentire i segnali deboli, capito? E non ti sento in tempo, quindi dillo più, dillo piano, grazie! Guarda adesso, a Scampia! Come via tu abiti? Scampia, quartiere Scampia! Ma di che zona ci vuoi? Di Durattinone? No, più giù! Scegli più giù? Ehi, dove ci sono le torri gemelle? Allora sai dove è cosa? Giarusa è un die, bene, a Sant'Orso, la Giarusa è un die, sì. Già lo so dove giri che c'è il treno lì. In chi è? Proprio in chi? Lì ci abitava un amico mio, adesso è morto, faceva il falegname. Prima in chi mi si fa di arufalegname, prima in chi? Eia, vediamo se è arrivato Gio Maria. Negativo, che ora sono? Adesso chiusa, Vittorio, ce la sentiamo a domani. Buona cena, buon tutto. E fai da bravo. Cos'è, grazia? E adesso chiudo, che devo fare cosa? Ci sentiamo domani. Ciao. Aspetta che passano i cioccolati. Ah, ti intendi volare tramite PMR. E mi è entrato Gio Maria adesso. E beh, Gio Maria, fatto hai. No, è venuta gente, se ne è andata, se mi sono dovuto assentare senza avvisarvi, dai, sai, capita sempre anche queste cose, cado un po' più, se ne fa vedere niente, tra niente. Ehi, ma è abbassato, sono l'ultimo accumento, mi devo fare pure l'insulina. Ma chi sono le cose? Ettore non si è affacciato più. No, deve essere andato a pigliare a 50. Se lo senti quando rientra, salutamelo. A domani, ciao. Ciao, e allora anch'io, dai. Ci sentiamo, dai, buon proseguimento, grazie. Saluto in casa. A domani se coincide. Salutiamo anche all'altro amico. Ci sentiamo domani, dai, buon proseguimento anche a te. A chi? Ehi, ho già salutato, buonasera. Buonasera anche agli altri. No, stiamo ascoltando anche Mario che sto facendo l'auguri. Buonasera, ben sentito, ma che fatti? È chiaro, è detto strano che ancora non è entrato il torre, ma chi io? Avete già entrato senz'altro prima di chiudere. Ed ecco così. Tore stava parlando con noi, si è assentato, evidentemente l'hanno chiamato e è andato a fare qualche. A prendere la 50, boh, forse. Non si è fatto più finire. Che deve essere che. Chi è andato a prendere la 50, là. Allora, Bacchi, cosa ci racconti? Che sta facendo freddo e la mattina sta ghiacciando. Hai visto che sta gelando, La mattina, adesso mi sono avvicinato qua, il cortile dietro, ed era tutto bianco, caccia. Ha gelato, e sta gelando anche stanotte. E se notte sta già gelando, non sono salito, c'era freddo la campagna. E tutto bianco era. Ha fatto un po' di ghiaccio stanotte. Sta gelando, Adesso incomincia, amico, se gelate, per carità, gatta. C'è un altro amico, frequenza, ma chi? Che non mi ricordo più il nominativo, ogni tanto mi dimentico, grazie amico. Vittorio mi chiamo, non dimenticatevi che sera mi metto in comunicazione con voi. Ah, Vittorio, Vittorio c'è, ma chi lo senti? Io che lo sento, vedo basso, ma già lo sento. Buonasera Vittorio, avanti, si ascolta il Bacchisio. Buonasera anche a te, Bacchi, come stai? Sta a posto? Tutto a posto, tutto a posto, quello che è a posto, che là te lo mettiamo. Aspetta. E signor Squadra non è rientrato ancora. Io non so, ancora non si sono ancora fatti sentire ancora. Ah, ok. Ma in che zona sei tu? Allora, zona, no, ci abita a Sant'Orso, in via Ortobene, o c'è un 10? A voi già. Sì, in via Ortobene allora, vicino al Val Direttore. Esatto, bravo Vacchi, lo sai, abita in quelle palazzine gialle in pratica, grazie che ci sono anche gli arancioni in pratica, c'è il bisogno. Io già l'ho capito chi era, non ho capito dov'è, e siamo vicini, io sono alla Teroce vicino alla chiesa. adesso io sono diretto, sono allora a Salesiani, se mi ha speso quindi. Ah, capito. Vicini, avanti, siamo lì. Eia, eia. E così è Marchì. Mi ero assentato, c'era attore, c'era che attore chiacchierando, siamo a noi. E eventualmente dopo io mi sono assentato, in quel momento si è assentato anche anche attore e così via. Però c'era Graziano e Vittorio chiacchierando. Ma oggi ho fatto una bella giornata e al sole si stava bene, però come cade il sole c'è freddo, ma chi? Io alle 4 ho smesso di fare qualcosa giù in campagna, ho ritirato tutto, però stava già cominciando a scendere la brina ed era freschetto, ho detto a me prima di buttarmi io butto a te che mi innando. Ma quando è così, infatti, bisogna pigliare le tracce, dai, ma chi? Oppure rimane, guarda, per freddo, già lo sai, a letta nostra, canta di freddo, lo soffriamo più di prima, per cui, io so quella guida che non mi fare in campagna, capisci? Una guida so che non mi fare in campagna, ma, canta, mi sento sempre male, così che non sto uscendo, capito? Qualche volta mi scendo qua, quando è bella giornata, dietro, già lo sai, trovo Antonello, magari altri, chiacchierando, ammazziamo la mattinata, ma però in campagna, cioè, tutti poi da me, c'è un brino, no? Per cui non è che puoi fare niente, perché l'erba è sempre bagnata e se no qualche cosetta avrei fatto. Ma non saranno che mi voglia appena a muglio, ma chi? Infatti non conviene proprio bagnarsi. Ah, io la mattina scendo, adesso sto scendendo anche più tardi, alle 8 passo a casa, alle 8 e 5, alle 10 sono giù, accendo la stufa e mi poso, senza ridersi non mi ne piso. Sì, ma cosa fai? No, è così, no. Fai bene, ma chi? Il da ragione. No, quando magari se c'è qualche cosa a portare giù agli animali, già scendo, ma scendo e salgo, non è che non passo in mezzo all'erba, capito? Perché gli ho messo a mangiare le fiale, c'è una ferradina, li metto a mangiare lì e me ne salgo, capito? Oh, io no, sono finito di sindrepio, ma chi? Nonna Giugana. E così è. Avanti Vittorio, Vittorio deve essere giovane però, la voce mi sembra abbastanza giovane, avanti Vittorio. Hello. Io che ti sento, avanti, parla pure che ti ascolto. Difenditi, Petro. Giusto, forse sei più giovane di me, di Gian Maria. Alla volta mi pare sia abbastanza giovane. Sì, giovane, perché io non credo, ma faccio 16 anni, secondo te? E allora se fai 16 anni sei già vecchio. Gian Maria, 16 anni Vittorio va. Vittorio, allora, auguri sei giovane. Catta, 16 anni, oia, brincavo la brede canti un bugno. Ah, ma invece manco la digia di Loretta, brinco. E io ti credo. Ma chi, la gioventù non vuole mai persa, Oh, già vi sei messati i giovani noi burlai, per cui... Quando il giovane si sa deve godere veramente, ma chi? E cosa prima si è finito di validà oppure no, capisci? Si è finito e poi validà. Scusa, cazzo, non aggiungi che era battente e non mi li sono gabbizzati. Che se non si comprende niente, capito, Pitù? Ma piano piano già impari, dai. Piano piano, con il tempo impari, però. fare, tu prima di favizzare devi accorciarsi si sono già favizzenti e non devi favizzare, quando fini allora puoi favizzare, capito? Beh, che sei giusto, no? E poi Vito, faccia parlare la radio, quando si assente la luce vuol dire favizzenti, capito? Già ti lo segna pure la radio se non lo intendi. Che si mette la luna, si attende la luce, si è occupato. Lì ricetto, ma ormai ti dirvi. Ma io questi acci comprati mi sembra il giorno di un 23. Ma niente gemmi, ricetrasmettiti da 50 euro, ma aggiungiate un modello pa tanto pa ciamba. Non pa pigliare un minimo da 1200 euro pa un GVC, ma fatta dito a pochissima. Importante che siano voi, c'è una portata almeno di 10 km ma già sono buoni, almeno come da come parli vi sento anche meglio. Hai preso quelli che sono appaiati, i PMR appaiati hai preso. Non ti taci quando hai pigliato tu, sono accoppiati, no? In una confezione vi sono due apparati, così è. No, appena. Hai visto Gio Maria, 10 km solo arriva. Allora sono l'LPD. Dove hai compreso, si ha detto, ma chi? Ha detto che arrivi a 10 km che si fa dentro del radio. E noi sono l'LPD. Ma portatele, ma no. Non tu pari, allora ci ho preso portatele. Vito, portatele, so che ci fai. Sì, questi c'è trasmittenti già sono portatili. Manda di che, 50 pari c'è trasmittenti, ma nulla di che. Da come marca mi sembra Brundi, mi pare che sia, sì. E di modello mi sembra FX309, magari di Swift dopo. E mi si già fanno bene. Si sento bene, sono quelli da 50 euro, quello gruppo funziona di me. Capito Gio Maria, da troni l'ha pigliati. Io non che sto uscendo bene, va bene, va bene. Va bene, ma chi? È già arrivata l'ora, per cui mi devo approfittare adesso, chiudo, vai. Ti ha già un po' d'appetito, per cui mi ando a mangiare. Ci sentiamo, ma chi? Buon proseguimento, saluto di casa, grazie della chiacchierata. A domani se coincide, saluto anche Vittoria, buonasera, a domani se coincide anche a te. Vai Bacchi, vi ascolto per il finalino e dopo chiudo, vai. Domani, grazie della chiacchieratina anche per te, saluto il cuore familiare e a domani se tutto coincide. Anche io faccio la stessa sorte perché ho sentito che ho la di merendero. Bene, salutiamo anche Vittorio. Ciao Vittorio, buona serata, ben ascoltato per la primiera. A domani se tutto coincide. Bacchisio e Gio Maria vanno in QRD. A domani, ciao ciao, buona buonanotte. Va bene, grazie, già ci sentiamo, ma tanto io sono sempre in conversazione, già sono sul canale. Quindi anche un proseguimento anche a voi, no? Ok, a domani, ciao ciao.